cicogna nera. Ma poi venne il rock and roll e la potente propaganda del movimento giovanile americano, dice Olivier Conan a proposito dell'ultimo album dei Las Rubias del Norte. Ma cosa sarebbe successo se l'America avesse perso l'imperialismo culturale e il rock non fosse mai esistito? Sono le 21:03, queste sono le sonorità popolari contemporanee della cicogna nera e la canzone che ci ascoltiamo ne è un possibile esempio. Il numero della diretta, oppure potete scriverci alla cicogna nera @ondarossa.info. Ziguala è la canzone che ci siamo ascoltati ed è un tradizionale rebetico, il blues della penisola ellenica, scritto nel 1955 da uno dei suoi più grandi interpreti, ossia Manolis Chiotis. E Ziguala è anche il titolo dell'ultimo, il terzo album dei Las Rubias del Norte, che a loro volta poi fanno il verso a un gruppo di nortegno messicano ben più famoso, i Los Tigres del Norte. Le Rubias sono le bionde Emily Hart e Alyssa Lamb, le vocalist che guidano questo settetto con sede a New York e che reinterpretano attraverso i bonghi, le congas, il quattro, il basso, gli organi, canzoni che fanno parte della tradizione di paesi che vanno dalla Spagna alla Grecia, che tra l'altro ci siamo ascoltati, fino a spingersi in India, in Giappone e naturalmente tutta una carrellata di tradizionali centro e sudamericani. Questo perché il senso dell'album sta nel fatto che dal 1930 al 1950 circa la musica latina dominava in qualche qualche modo la scena di molte capitali del mondo, il mambo, la rumba, la clave cubana, trovavano la loro via nelle hit di mezzo mondo, nella scena di Shanghai piuttosto che di Parigi, nell'allora Costantinopoli, fino a compiere un viaggio di ritorno in Africa attraverso la forma afro-cubana del Secus congolese. Dunque Ziguala, più che una registrazione latina, è un album pop che usa un vocabolario latino. Pensiamolo un po' come all'opposto del rock cantato in spagnolo, ci dicono le parole del bizzarro Olivier Conan, arrivato dalla Francia e che ha prodotto questo album per la sua Barbez Record, e in cui suona il quattro, una sorta di piccola chitarrina a quattro corde di retaggio coloniale spagnolo. I Las Rubias suonano il pop come se lo tsunami del rock non fosse mai esistito, ci dicono le parole di Olivier. Ancora, a noi piace costruire la nostra realtà, noi giusto immaginiamo un mondo senza rock and roll. E noi rimaniamo proprio a New York, precisamente nell'East Harlem, da dove arriva il debutto di un'altra voce che guarda le sonorità centroamericane, quella di Rachel Zeta Rivera e i suoi Ojos de Sofia. Magdalena la sublime, la patrona del solsticio, la que nuestro beneficio con sus lágrimas redime. Su evangelio se reprime, su enseñanza el mundo ignora, la tildan de pecadora. Cuando apóstol santo fue mi María de la fe, nuestra divina señora, mi María. Nostra Signora di Lexington è il titolo di questo brano, dedicato alla figura di Maria Maddalena, e che per Rachel è la sola che può portare un po' di luce su Lexington Avenue, la strada del barrio nell'East Harlem, dove lei, insieme a Tania, la compagna con cui ha avviato questo progetto di devozione nel 2006, risiedono. La Sette Salves della Maddalena, invece, è il titolo di questo debutto per la Rivera e i suoi Ojos de Sofia, e significa proprio le sette lodi, le sette devozioni al personaggio di Maria Maddalena, una delle più controverse figure della cristianità, e questo purtroppo, mi verrebbe da dire, proprio grazie a Papa Gregorio, che nel 591 d.C. in un sermone accomuna la peccatrice piena di lacrime che lava i piedi al Cristo, e che, se non mi ricordo male, dovrebbe essere Maria di Betania, sorella di Lazarus e di Marta, proprio a Maria Maddalena. E così la povera discepola di Cristo diventa la prostituta redenta più famosa della storia. C'è anche da dire che nel 1969 il Vaticano ammette l'errore, ma questo non basta. Ancora oggi, se chiedete a un fervente cristiano qual è la prostituta più famosa della storia, senza dubbio vi risponderà Maria Maddalena. Per la giornalista Rachel, invece, Maria Maddalena diventa l'elemento centrale della sua teologia indipendente, così ci dicono le sue parole, la chiave per portare un po' di pace. Un bel progetto di costruzione e decostruzione di vari miti, dunque, questo La Sette Salves della Maddalena, che prende corpo proprio dalle lodi mariane che vengono praticate nella Repubblica Dominicana attraverso generi musicali quali ad esempio la jibaro di Puerto Rico, la bomba e altre radici sonore caraibiche. Tutto questo in un approccio neofolk che prende vita nella Grande Mela, che è una delle metropoli sicuramente più dinamiche al mondo per quello che riguarda la scena musicale, e non solo, naturalmente. Andiamo avanti e lo facciamo con un piccolo passo indietro, andiamo a ripescare quell'eclettico personaggio di Olivier Conan, perché in uno dei suoi numerosi viaggi in Perù si è innamorato di un suono dimenticato da Dio, leggiamo sul web. Questo vero almeno fino a pochi anni fa, perché proprio grazie a lui questo genere è giunto finalmente anche alle nostre orecchie. Un suono che prende il via all'inizio degli anni 70 circa sul versante amazzonico del Perù, e che prende il nome da un antico liquore a base di mais fermentato, lo facevano gli Incas, lo fermentavano con la saliva, e che oggi in realtà non è più così facile da trovare, penso neanche in Perù. Io qui a Roma ci ho provato un paio di volte in dei ristoranti peruviani, ma mi hanno guardato un po' con aria divertita e rassegnata allo stesso tempo alla mia richiesta di ciccia. We'll be right back. sono dei Los Bamblers, dei Iquitos, con questo lamento del Yakuruma che sta a rappresentare al meglio il suono della ciccia, che in tempi recenti, come dicevamo, è uscita dai confini nazionali proprio grazie a personaggi come Conan, che ne ha pubblicato due raccolte da cui abbiamo estratto la canzone che ci siamo appena ascoltati. Ma ancor prima Conan reinterpreta in chiave globale il sound andino con il suo progetto musicale di debutto che si chiamano I Ciccia Libre, e di cui tra l'altro stiamo utilizzando una canzone come base, la state sentendo sotto e state proprio ascoltando la chitarra psichedelica, la chitarra surf, che è un elemento molto importante in questa musica, musica che prima degli anni 76-77 circa non veniva chiamata ciccia, bensì cumbia amazzonica o andina. Ciccia che è stata in qualche modo codificata nel 1968 da tale Enrique Delgado, che è riuscito a mescolare questa attitudine, diciamo così, della chitarra nordamericana con la cumbia colombiana e soprattutto ad inserire, elemento centrale di questo genere, gli huaynos, che sono praticamente una musica e un ballo amerindio fatto principalmente da scale pentatoniche. Non solo, ci sono anche delle sonorità cubane nella ciccia e repertori che guardano molto lontano. Basta pensare che alcuni gruppi hanno rifatto melodie orientali, o ad esempio nella prima raccolta di questa Barbeza Records potete ascoltare una versione cicera, se mi passate il termine, della bagatella di Beethoven per Elisa. Dunque, se vi piace questa musica, The Roots of Ciccia è il nome delle compilation da cui abbiamo ascoltato anche la canzone. Questa esattamente era il volume 2, che sposta maggiormente l'accento sull'aspetto urbano di questa musica, sulla cumbia costegna, come veniva chiamata allora, in contrapposizione o in opposizione alla sua origine andina, che io tra l'altro preferisco, e che ha un suono più vicino alla cumbia colombiana. E allora mi sembra arrivato il momento di andarla a sentire, questa cumbia, questo genere che ha dato un forte impulso alla nascita della ciccia, e lo facciamo con una compilation ancora più recente. The Roots of Ciccia esce all'incirca lo scorso settembre, la compilation che invece utilizziamo ora esce alcune settimane fa per la Soundway Records, che è una label molto interessante con base a Londra e che, leggiamo sul suo sito, va alla riscoperta e alla ripubblicazione di vari suoni e generi del secolo scorso o poco conosciuti o comunque dimenticati. Ad esempio, due settimane fa abbiamo trasmesso un brano che arrivava da una compilation stupenda e che tratta del Luktung, un genere thailandese degli anni 60-70, stesso periodo grosso modo della ciccia, che secondo me deve molto anche questo alla psichedelia nordamericana. Cumbia del Monte, lui è Alex Acosta, i su Orquesta. Por la mañanita hasta que se oculta el sol, desde por la mañanita hasta que se oculta el sol, de un hacha se escucha el grito que se ha vuelto una canción, de un hacha se escucha el grito que se ha vuelto una canción. Cumbia del monte cortando un cedro, cumbia del monte pa' su canoa, cumbia del monte canción del negro, cumbia del monte canción del boga. Y las aves le responden con su bonito cantar, y las aves le responden con su bonito cantar. Cumbia del monte cortando un cedro, cumbia del monte pa' su canoa, cumbia del monte canción del negro, cumbia del monte canción del boga. Musica, canto, danza, un pezzo di storia della Colombia, che ha radici ben più lontane rispetto alla ciccia. Precisamente nel 1538, purtroppo con la distruzione della popolazione dei Chibcha ad opera dei colonizzatori spagnoli che sbarcarono nei dintorni di Cartagena. Non so quale relazione nascosta ci sia tra questa etnia amerindia e la ciccia peruviana. Basta che togliamo una B e il nome diventa lumismo, per dirlo in spagnolo, mentre invece è sicuro che la cumbia è l'emanazione diretta della cumbiamba, una danza in circolo che uomini e donne nere eseguivano a piedi nudi sulla sabbia attorno ad un grande falò. Dunque una componente molto nera sicuramente in questa musica, tant'è che il termine cumb è di origine africana e significa proprio rumore, frastuono, suono. Come è avvenuto per altre grandi musiche latinoamericane, la cumbia nasce proprio e per mezzo di morte e distruzione, quella dei colonizzatori europei, che avranno la loro parte naturalmente in questo genere, ma questa volta c'è anche una componente amerindia abbastanza forte, quella della melodia portata all'interno della cumbia, almeno agli inizi, attraverso i flauti, tal Caña de Millo e i Las Gaita. Poi più tardi i bianchi hanno aggiunto il canto, le variazioni melodiche e soprattutto i costumi dei ballerini. Cumbia che poi è uscita dai confini nazionali e si è estesa un po' in tutta l'America Latina, e raggiungendo due realtà molto importanti, a nord nel Messico e a sud nell'Argentina, dove è diventata un fenomeno di risonanza e di rappresentanza degli abitanti poveri che abitavano le baraccopoli chiamate Villas Miseria. La cumbia villera invece è il titolo e il nome che poi ha preso questo genere e che ha assunto naturalmente in Argentina, dove noi rimaniamo per il prossimo brano, se non proprio nelle baraccopoli, comunque nella sua capitale, Buenos Aires, da dove arriva un tipo ancora più eccentrico di Olivier. Parliamo di Axel Crigier, che ci ricorda almeno agli inizi, ai suoi primi ascolti, per il suo approccio divertente, il tropicalista Tom Zé. Lui parte dall'elettronica e ci mette su elementi di jazz, di burlesque e molti altri generi popolari del mondo, sudamericani su tutti naturalmente, e argentini, perché no, il tango, la milonga e la cumbia villera, e di cui ritroviamo un piccolo sapore nel brano di apertura del suo ultimo progetto, Pesebre, dedicato alla natività. La cucaraccia è il titolo della canzone che ci andiamo ad ascoltare e che molti di voi già conoscono nella sua versione originale, quella di un tradizionale messicano le cui origini alcuni vogliono far risalire all'auto del generale Pancho Villa, che per farla breve era praticamente sempre rotta, e così si è guadagnata col tempo il nomignolo, il nome di scarafaggio, di cucaraccia. dei brani migliori di questo pesebre, che significa mangiatoia, come già detto, dedicato alla Natività, ma che è una Natività del tutto particolare, dove Gesù suona la melodica, dove l'agnello è con le zampe legate e un toro fa l'amore con un asino. Pensate un po', e questo insomma ci dà bene l'idea dell'approccio divertente in cui ci vuole portare Axel Crigé, che qui, come d'altronde ha sempre fatto, produce l'album, canta, suona diversi strumenti, tra cui la keyboard, il basso elettrico, il clarinetto, insomma fa un po' di tutto per un progetto dove entra l'hip hop, la musica balcanica, il klezmer come nella canzone Agnes, oppure la già sentita ciccia nella canzone Esclavo de Olor. Axel Crigé, che è stato in esilio volontario a Barcellona, poi è tornato a Buenos Aires, dove ha prodotto questo disco e dove tra le altre cose si è anche unito al collettivo Zizek o Zizek, sperimentatori super giù impegnati nella miscelazione di suoni della tradizione popolare sudamericana con l'elettronica. Poi di nuovo, da poco, si è spostato a Parigi, dove ha messo su un gruppo per portare in tour nel vecchio continente questo suo ultimo progetto, diciamo per allargare un po' gli ascolti al di fuori del suo paese natio. Noi proprio a Parigi rimaniamo, alla musica che sta sotto magari ce la fa ricordare un po' la città che è il nostro collegamento, con le prossime due canzoni, la prima delle quali arriva proprio da un artista che secondo me è la più degna erede della regina Piediscalzi della Morna, ossia Cesaria Evora, anzi direi che proprio supera i generi prettamente capoverdiani o capoverdini, non so quale sia l'esatta pronuncia, magari entrambe, della Morna, della Coladeira, della Funana, e questo proprio grazie al suo meticciato etnico, se così lo possiamo chiamare, quello di Mayra Andrade, nata a La Habana da genitori capoverdiani, cresciuta tra l'Angola e la Germania e infine spostatasi definitivamente a Parigi nel 2002. Andiamoci ad ascoltare il suo ultimo album, pubblicato alla fine del 2010, si chiama Studio 105, che è proprio lo studio parigino dove è stato registrato in versione acustica e che riprende le migliori canzoni dei suoi due album precedenti. Tunuca è il brano che è partito sotto ed è un brano dove Mayra suona il ferro, uno strumento a sfregamento tradizionale dell'arcipelago capoverdino. Tunuca, Tunuca balla, chi ten coraggio, e sotto Tunuca di meu socorro, cada il cuidado, cada il sentido, chi fa di tuo coração. Tunuca, è nós che vai, è nós che vem. É nós que fica alimento no único coração. Nacionalidade já não tem já. No mar a nós condom. Nos limar e nos deixar lá. No único coração. Nacionalidade já não tem já. No mar a nós condom. Nos limar e nos deixar lá. E nos que embarca pra Santo Mé. Injuriado, marado, pé. Mico, pouco, estalamé. Tudo andado, andou também. Não nos ponde cada dia. Oxi, deto, manhã, mareado. Remediado, catem e jogo. Que espera andar, andou também. E nos que embarca pra Santo Mé. Injuriado, marado, pé. Mico, pouco, estalamé. Tudo andado, andou também. Não nos ponde. Oxi, deto, manhã, mareado. Ramelharu, catemi, jo. Que espero andar vindo também. Tu nunca creu que é pecado. Não que tá flado. Mas sou o que tenho. Tu nunca creu que é pecado. Não que tá flado. Mas sou o que tenho. Tu nunca. Tu nunca e ti sei che in tempo amplato. Oh, tu nunca, oh. Manuka in versione acustica dall'album Studio 105, un album, come detto, in cui si sente il superamento delle origini capoverdiane di Mayra, un suono che guarda anche alla chanson francese e particolarmente alla musica brasileira, tant'è che nel suo album precedente Storia ritroviamo insomma la parte ritmica, il percussionista Zé Luiz Nascimento, e questo riflette anche il forte legame che c'è tra questi due paesi, entrambe ex colonie portoghesi, due stati che hanno dato vita a generi musicali secondo me tra i più intensi e belli al mondo, pieni di saudade, molto probabilmente portati dal fado lusitano. È arrivato il momento di ascoltare l'altra canzone parigina, questa volta solo nel nome, nel suo titolo Paris, ma con il suono ci spostiamo dal caldo tropicale fino all'estremo nord, al circolo polare artico, e ci affidiamo a uno dei più grandi rappresentanti dell'etnia autoctona dei Sami, Wimmé Saari, con il suo ultimo album Moon, che significa me. Timon, que este está caindo cusca. E mon fal vachan, mon vachan de espaca cartes. Chocaram, mais testan. Ah, temon buchtin kirtilan. Ya, oh, Paris. Oh, Paris, Yamon, ah, oh, Paris, topem, kulan, jounante, chalas, jorkala, teaustai, oh, Paris. E quando mancano 20 minuti alle ore 10 continuiamo con i suoni dal mondo della cicognera. Questo era Wimmé Saari, dove canti sciamanici incontrano moderni paesaggi sonori. Questa potrebbe essere la sintesi del suono di questo artista finlandese, che qui lascia un po' andare i sintetizzatori e i sequencer e si affida ad una dimensione più acustica, chiamando nel progetto due componenti della band finlandese dei Rinne Radio, ovvero Tapani Rinne al clarinetto e Juuso Hannukainen, se questa è la pronuncia, alle percussioni. L'elettronica sempre molto presente nei progetti di Wimmé, qui comunque non è che se ne sia andata del tutto, ci pensa tal Thomas Norvio a mettercene dentro, e il risultato è il miglior album sicuramente di Wimmé Saari, un equilibrio perfetto tra i suoni digitali e la dimensione acustica, che segna un po' un ritorno alle radici folcloriche ma in una via contemporanea. Radici che in questo caso sono quelle della popolazione autoctona dei Sami, impropriamente chiamati Lapponi, leggiamo su Wikipedia, una realtà di circa 75.000 abitanti che si spalmano, diciamo così, nella zona nord della Svezia, Finlandia, Norvegia e un pezzetto di Russia per mezzo della penisola di Kola, per meglio dire una terra chiamata Fennonscandia. Sami che giungono a noi, almeno come conoscenza ufficiale, sempre da Wikipedia, nel 1555 d.C., quando lo svedese Olas Magnus pubblica qui nella nostra capitale la Historia de Gentibus Septentrionalibus. Prima di allora solo descrizioni ad opera di autori medievali, racconti per lo più fantastici dove le donne rimanevano incinta bevendo acqua piuttosto che uomini verdi, cannibali, insomma amenità di questo genere. Ma quello che ci interessa a noi qui alla Cicogna Era è che nella cultura Sami c'è un canto tradizionale molto importante e particolare che prende il nome di Joik o Joik, che dir si voglia. È una composizione ispirata a un luogo, ad una persona, ma attenzione, non è che sia dedicata a loro, bensì cosa fa lo Joiker? Prende l'essenza di questo luogo, di questa persona, e la trasferisce all'interno della composizione. In effetti, per quanto riguarda il testo, in molti Joik spesso è del tutto assente o molto ridotto. Potremmo quasi chiamarlo una cantillazione a cappella, sorretto dalle percussioni su una tonalità che spesso è volentieri e pentatonica. E allora andiamo ad ascoltare un frammento di questo Joik, un estratto questa volta dall'album precedente di Wimme Wave del 2004. La canzone si chiama Dalki, ossia tempesta. Dire eccezionale, la tempesta di Wimme Saari, una cantillazione che spesso ci ricorda un'altra direzione sonora, quella dei nativi nordamericani. Però i Sami sono un'etnia artica un po' difficile da inquadrare o inserire fra le popolazioni asiatiche, a differenza, come vi ho già detto, tra gli indiani d'America o degli eschimesi, perché hanno dei caratteri propri, hanno ad esempio la mancanza di tratti mongoli, quali gli occhi a mandorla, sia un'alta coincidenza di occhi e capelli chiari. Dunque rimangono un po' un mistero questi abitanti del vecchio continente tra i più bassi, ci dice sempre ormai la nostra enciclopedia libera Wikipedia, che consultiamo e che ci dà molte notizie per la nostra trasmissione. Pensate, 157 centimetri di media. Non è così invece per le popolazioni native della Nord America, quelli abitanti gli attuali Stati Uniti e soprattutto quelli del Grande Nord, impropriamente anche questi chiamati da noi occidentali eschimesi, ovvero mangiatori di carne cruda. Eschimesi che si dividono in diverse etnie, stanziate anche al di là dello stretto di Bering, in Asia. E in particolare da quelle parti troviamo l'etnia degli Yupik o Hupik, Yupik, ma questa sera noi ci vogliamo soffermare sugli Inuit e ce ne andiamo precisamente nel Nunavut canadese, da dove arriva una cantante ed un genere di canto di gola, di canto armonico molto, molto interessante, molto famoso. Una tradizione che si può avvicinare allo Yoik, ma contemporaneamente se ne distacca. Si chiamano appunto canti di gola, anche se questo termine non rende molta giustizia a questa espressione culturale. I giochi di gola, i giochi vocali, i canti ansimati, il canto armonico sono tutte espressioni nostre di noi occidentali. Peraltro poi il canto di gola ci porta a pensare nella direzione degli overtone praticati in Centrasia piuttosto che nel Nunavut canadese. E questo perché il gioco di gola non è esattamente la traduzione di questa vocalità che gli Inuit chiamano Katayak e che rappresenta un'espressione culturale complessa che gli Inuit praticano nei momenti conviviali piuttosto che nella devozione religiosa. È un'attività creativa che ha una forte valenza simbolica, possiamo dire che è quasi uno dei grandi momenti di serenità, forte coesione nel grande nord. Queste sono parole contenute in uno, secondo me, dei migliori articoli o approfondimenti che possiamo trovare liberamente sul web riguardo a questo canto Katayak. Lo potete leggere, non mi ricordo esattamente la pagina, comunque digitate Katayak, canto che fonde una pedagogia e che arriva da fondamenti della comunicazione musicale dall'Università di Scienze della Formazione Primaria dell'Università della Calabria, e deve essere un articolo, anzi è un articolo, c'è scritto da tal Pietro Paolo Cusauto. Il sottotitolo è Problematiche di comunicazione musicale nei Throat Singing. Dunque, se vi piace questo genere, questi esperimenti vocali, potete bene andare a approfondire attraverso questo articolo e anche altre cose. Dunque, dicevamo che questo Katayak ha una valenza simbolica e che noi adesso ce lo vogliamo andare ad ascoltare, a sentire con un'altra sperimentatrice musicale dei nostri tempi, una Inuit che si chiama Tania Tagak. Forse, a differenza di Wimmy, che sta più sull'incontro dell'elettronica col folk, Tania si avvicina maggiormente alle direzioni sonore intraprese da personaggi quali Bjork o Mike Patton, tra l'altro artisti con cui ha collaborato. Per quanto riguarda invece il Katayak, la nostra cara Tania si era avvicinata non da molto tempo al suo genere folclorico tradizionale della sua patria, e stasera ce l'ascoltiamo in una interpretazione sua insieme a Rebecca Fon. Il titolo di questa canzone, pronuncia permettendo, dovrebbe essere Quim mi rulo a pic. Posizionate l'una di fronte all'altra a distanza ravvicinata e ognuna con le mani poste sulla spalla dell'altra. Così viene composto questo Katayak, attraverso un motivo ritmato che si forma da dei suoni sordi che le donne emettono dalla gola, nel modo in cui, mentre una delle due emette il suono, l'altra inspira, e si crea una sorta di ridondanza sonora in cui non si capisce più da quale delle due bocche arrivi il suono. In certi casi questo canto si avvicina con l'uso delle onomatopee allo yoik, anche per il contesto a cui si rivolge il suono. Si imitano i suoni della natura, del vento, degli animali. Comunque, almeno nella tradizione, il Katayak veniva eseguito come espressione vocale di una competizione in cui il cedimento della voce o la mancanza di fiato si palesavano in una risata contagiosa che stava proprio a significare la perdita della gara. Il Katayak, dunque, come espressione culturale, non solo musicale, come in tante culture arcaiche, la musica non è un termine che noi possiamo facilmente dividere e possiamo distinguerlo da altri contesti. Un canto che si pensa aveva anche la funzione di intrattenimento dei figli in un mondo dove le donne erano in attesa attesa dei loro mariti che tornavano dalla caccia. Canto di gola, questo è una peculiarità riservato e praticato dalle donne Inuit Netsilik, una peculiarità che lo distanzia molto dall'altro Throat Singing, quello che conosciamo meglio, quello delle regioni del Tibet, della Mongolia, della Repubblica Autonoma di Tuva nella Russia siberiana, da dove arriva un particolare artista che cavalca le scene da ormai molto tempo. Ha fondato nel 30 anni circa or sono gli Yatka, così si chiamano questa formazione, che fondevano il Throat Singing con il rock, e pubblica all'inizio di questo 2011 Poets and Lighthouses, dove possiamo ascoltare un particolare cargira, il canto di gola di Garbert Kuvesin. Insect. l'eccezionale grugnito, ruggito, ringhio di Albert Cuvesin in questo The Cry. Forse lo possiamo chiamare cargira, il suo canto armonico, una delle modalità del throat singing insieme a un frammento di un'altra tecnica di questo canto chiamato Kermi. Un album registrato nella isola scozzese di Jura con una versione tutta british degli ultimi elementi degli Yatka, che originariamente erano tuvani e che suonano qui il piano, le percussioni, il clarinetto e uno strumento chiamato kumbius, tipico della cultura medio orientale. Allora, siamo quasi giunti alla conclusione di questa nostra trasmissione e ritorniamo per la penultima canzone in Finlandia ad ascoltare uno dei pochi hip hop possibili nella nostra cicogna nera. Si chiama Pale Face, al secolo Carri Miettinen, e pubblica lo scorso anno uno dei migliori progetti del Nord Europa, Helsinki Shangri-La. La canzone, special guest tal Herra Hippo, pronuncia permettendo, si chiama Leijonakaiapöret. Leijona tallaa käyrää miekkaa. Leijonan kypärät on täynnä hiekkaa. Leijona tallaa käyrää miekkaa. Leijona kypärät on täynnä hiekkaa. Valkoinen ruusu, hopeinen kuu, kultainen sääntö, messinki suu, sininen hetki, mustempi kulta, punainen piste ja mustempi multa, harmaata taloutta, vihreä aate, keltainen lehdistö, punainen vaate, punaiset silmät, punainen risti, valkoinen lippuveren, punainen piste. Nää kaukaisen Kabulin suomiseta Samulin rodeossa maistaa hattaraa, Isafin, Kalifin, Mazarin, Sharifin, aavikolla paistaa makkaraa. Leijona tallaa käyrää miekkaa, historian lehdet havisee. Leijonan kypärät on täynnä hiekkaa. Kalevanin sapelit kalisee. Leijona tallaa käyrää miekkaa. Historian lehdet havisee. Leijonan kypärät on täynnä hiekkaa. Sivulliset ohitettu aatteen tiellä, humanitäärinen saarto. Vihollinen motitettu raatteen tiellä, kuiskaa äänisen aalto. Vartio tehtävis, tienvarsi hommiin, kun vartio vuorossa postaa. Telaa partio tehtävis, tienvarsi pommiin, kun Taliban päättää kostaa. Nää kaukaisen Kabulin suomiseta Samulin rodeossa maistaa hattaraa. Isafin, Kalifin, Mazarin, Sharifin, aavikolla paistaa makkaraa. Leijona tallaa käyrää miekkaa. Historian lehdet havisee. Leijona kypärät on täynnä hiekkaa. Kalevanin sapelit kalisee. Leijona tallaa käyrää miekkaa. Historian lehdet havisee. Leijonan kypärät on täynnä hiekkaa. Kalevanin sapelit kalisee. Ylipäällikkö kiipee kamelin selkään, marski ei enää ratsasta. Sala-ampuja vaanii kolmatta päivää Mannerheimin patsasta. Ylipäällikkö kiipee kamelin selkään, marski ei enää ratsasta. Sala-ampuja vaanii kolmatta päivää. Pommitus, miehitys, invaasio ja Molotovin koktaa party. Polttopullo, suomalainen innovaatio, ei ahdinkossa ihmeitä vaadi. Siinä ei maida haakoita, jätti mitään, pullo bensaa ja sullotaan rätti sisään. Viis lisää, sehän on siis vähin mitä. Luokkaretki Lähi-Itä. Älä lyö päätäsi Karjalan mäntyyn tai ainakaan Kabulin pistaasi. Sinikypärä päät saat varmana kääntyy, kun lisät Afganistanin listaasi. Nää kaukaisen Kabulin suomiseta Samulin rodeossa maistaa hattaraa. Isafin, Kalifin, Mazarin, Sharifin, aavikolla paistaa makkaraa. Leijona tallaa käyrää miekkaa. Historian lehdet havisee. Leijona kypärät on täynnä hiekkaa. Kalevanin sapelit kalisee. Leijona tallaa käyrää miekkaa. Historian lehdet havisee. Leijona kypärät on täynnä hiekkaa. Kalevanin sapelit kalisee. Leijona tallaa käyrää miekkaa. Historian lehdet havisee. Leijona kypärät on täynnä hiekkaa. Kalevanin sapelit kalisee. Leijona tallaa käyrää miekkaa. Historian lehdet havisee. Leijona kypärät on täynnä hiekkaa. Helsinki Shangri-La, che tra l'altro corrisponde ad un indirizzo preciso se lo digitate su Google Maps. Probabilmente questo album ha una relazione segreta con quel posto, chissà cosa c'è lì. Shangri-La invece è il nome di un luogo immaginario descritto nel romanzo Orizzonte Perduto di James Hilton nel 1933. Leggiamo, l'idea giunse a James Hilton dalle letture delle memorie dei gesuiti che avevano soggiornato in Tibet e che erano venuti a conoscenza delle tradizioni legate al Kalachkakra, dovrebbe essere il termine. termine Tantra, in cui si descrive un mitico regno di Shambhala. Dunque, ultimo ascolto per questa sera, lo facciamo presentando un'uscita discografica che è un'interazione tra la musica contemporanea, il folk scandinavo e la musica elettronica, una collaborazione tra uno dei quartetti d'archi più famosi degli ultimi 30 anni, i Kronos Quartet, e due musicisti finlandesi, Kimmo Pojonen, fisarmonicista e un esperto di percussioni, programmazioni e sampling, tal Samuli Kosminen, che dà un impatto, diciamo, pesante di post-produzione elettronica a questo lavoro di orchestrazione. 7 tracce, 7 sequenze per questo unico, il nome del progetto, la canzone con cui ci lasciamo è Sarma. Cogna Nera finisce qui, vi ricordo che se vi piace la nostra trasmissione potete andare sul sito della radio e riascoltarvela in streaming, l'indirizzo è www.ondarossa.info/trx/lacicognanera, lì trovate bene o male tutte le puntate, anche se le prime ultimamente non vanno più, ma vedremo di metterle a posto. A breve dovrebbero prendere il posto alla conduzione di Radio Onda Rossa le sonorità dei Noctibus Panis, ma ancora non si vedono, probabilmente sono ancora in ferie, dunque adesso un po' di automatico e poi forse alle 11 arriveranno i ragazzi di Apostasia. Noi invece ci risentiamo giovedì prossimo alle 21:15. Ciao agli U.